Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Secondo appuntamento per questa settimana con l'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Come sempre un caro saluto al presidente Carlo Garofolini, che è con noi al telefono. Ciao Carlo. Ciao Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Oggi tocchiamo un argomento che è quello, non è nuovo, è quello del portafoglio, no? Dei redditi, perché negli ultimi 30 anni sono cambiate un po' di cose, soprattutto tra i più ricchi e i più poveri. Sì, andiamo a commentare quelli che sono un po' i dati diffusi dall'OCSE qualche giorno fa, dove appunto l'OCSE ha evidenziato come sia i ricchi e i poveri in questi ultimi anni sono aumentati di numero, a tal punto che nell'area OCSE c'è un forte squilibrio a favore dei più ambienti, che per ogni euro dato ai poveri risulta che addirittura 10 vanno a chi è più benestante. Quindi dati che fanno capire che la forbice si allarga, i ricchi hanno sempre più soldi a disposizione, i poveri, ahimè, sempre meno. Sì, diciamo che sempre tenendo come riferimento l'area OCSE, se negli anni 80 il rapporto era 7-1, oggi sostanzialmente siamo in un rapporto praticamente di 10-1. E certamente è un dato che acquisa un certo significato se teniamo conto come soprattutto si è valutato in questi ultimi anni. Certamente un motivo emerso proprio per il fatto che il 40% della popolazione che era un po' inserita nella fascia media sostanzialmente è quasi del tutto sparita, andando a confluire un po' su quella che è la fascia più disagiata della nostra società, mentre solo una minima parte, ma quindi anche incrementando, va andato su quella che è la fascia più elevata. È un dato molto importante perché certamente evidenzia come le diseguaglianze oggi sono più che mai evidenti e come sostanzialmente oggi la politica non ha fatto interventi significativi per riuscire a invertire questa tendenza o a riportare quella che in qualche modo potrebbe essere un'eguaglianza sociale più adeguata tra chi in questo periodo della sua vita o in questa crisi fa sempre più fatica a arrivare a fine mese o rientra proprio nella fase della povertà assoluta, a chi invece risulta rafforzare o consolidare quello che è un primato di benessere che appunto in questi anni si è rivalutato. E l'economia generale mondiale non aiuta, anche chi magari si era messo da parte dei soldini e li ha investiti magari cercando di procurarsi un lavoro, poi le notizie sono che tanti aprono ma molti di più sono quelli che chiudono. Purtroppo credo che chiunque gli sia capitato anche di camminare per un centro storico di un qualsiasi paese o guardarsi attorno, ormai i cartelli con scritto vendesi oppure cedisi attività oppure addirittura sala cinesche completamente abbassate o appartamenti, abitazioni addirittura chiuse che non si riescono più a vendere, ormai sono aumentati tantissimo, dal punto che addirittura le zone industriali dei piccoli comuni, come un po' anche la caratteristica della nostra tipologia dell'economia veneta, sostanzialmente si sta riducendo a zone industriali sempre più deserte, con capannoni ormai che sono per lo più chiusi rispetto a una volta dove invece c'era più un proliferare di attività. Comunque tutta una serie di dati che certamente aggravano la situazione, soprattutto in cui traspare come nella crisi invece c'è un dato che va controtendente, è quello di chi sta bene. Se da una parte i poveri aumentano, dall'altra se sottraendolo seguono i ricchi, per cui non si capisce come mai questa disuguaglianza di crescita proprio in un periodo di forte difficoltà. Dai dati OCSE è venuto fuori che anche questo svantaggio, questa ineguaglianza tra le parti, tra i ricchi e i poveri, va a minare l'opportunità di istruzione di una gran parte della popolazione. Questo ovviamente non fa bene a tutti. Questa purtroppo è una delle conseguenze che, come hai detto, va a minare l'istruzione, perché sappiamo che uno Stato, un governo, un popolo è sorretto dall'istruzione, in quanto l'istruzione è l'unica arma che può contrapporsi anche su quelle che possono essere certe situazioni di disagio, di difficoltà, ma che può dare anche delle opportunità. In una fase in cui si deve cercare di arrangiare e ognuno cerca di tagliare dove può per sopravvivere, certamente l'istruzione, come anche le cure mediche e come tante altre cose, subiscono certamente un drastico taglio, tal punto che molte famiglie non hanno più i soldi neanche per poter mandare i figli all'università, per esempio, o addirittura chi ci va ormai va all'estero, per cui certamente un quadro che mortifica quello che è un po' un scenario già molto delicato e che comunque vede l'Italia purtroppo essendo un po' in cima alle classifiche anche su queste cose, anche se bisogna dire che la Francia e anche la Grecia hanno le loro tendenze che non sono migliori dell'Italia, però certamente noi siamo sempre nel podio quando si deve trattare di dare qualche primato e questo non dovrebbe incoraggiarci. Una fotografia triste, io Carlo mi auguro che la settimana prossima, siamo alla vigilia di Natale, ci risentiremo per un solo collegamento con te, con l'Adico, magari cerchiamo un argomento un po' più gioioso, perché poi ahimè, però è giusto che raccontiamo anche quello che veramente capita e lo facciamo con i nostri collegamenti, ma anche invitiamo gli ascoltatori a visitare il sito associazionedifesaconsumatori.it, dove trovano tante notizie che prontamente voi pubblicate nel vostro sito, e anche se volete riascoltare le puntate che abbiamo fatto insieme a te dell'Adico, potete sintonizzarvi sul sito di Blu Radio Veneto. Grazie quindi al presidente Carlo Garofolini, alla settimana prossima. Grazie a te Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.